4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buona serata, ancora una volta bentornati amici dei motori. Allora, questa è l'ultima puntata del 2009 e come sempre facciamo, tiriamo un po' insomma le somme di quello che è successo in quest'anno motoristico dal punto di vista quattro ruote ma anche due ruote. Per farlo abbiamo alcuni dei direttori che ci hanno seguito durante l'anno insieme ai nostri partner naturalmente di Domus con quattro ruote, con due ruote, Moto Online e con Top Gear. Iniziamo subito da Luigi Bianchi, il direttore di due ruote. Caro Luigi, buonasera e bentornato. Auguri a tutti. Senti Luigi, è stato un anno in cui abbiamo parlato tantissimo di mercato dell'auto, della grande crisi automobilistica nei primi sei mesi e poi di un giugno, maggio, giugno, luglio che hanno stupito un po' tutti per arrivare addirittura all'ottimismo da settembre in poi. Che cosa è successo nel campo delle moto? Ma l'andamento è stato un pochettino diverso, perché l'inizio dell'anno è stato effettivamente molto difficile, mentre c'è stata poi una ripresa, ma molto decisa, a partire da ottobre-novembre in poi. Tant'è che la previsione è che si chiuda il 2009 con una perdita dello 0,1% sull'anno precedente, il che è veramente pochissimo. C'è però da dire che le vendite si sono concentrate più che sulle moto, che sono rimaste pesantemente in crisi, sugli scooter, soprattutto sui 125cc che si guidano anche con la patente dell'auto. Decisamente, certo. Questo però fotocopia un anno un pochino diverso dal punto di vista industriale. All'ultimo EICMA, il salone che è, insomma, è fra i più importanti al mondo, mancava i colossi giapponesi, però voi stessi avete registrato insomma una buona affluenza, soprattutto un buon interesse concreto degli ascoltatori nei confronti delle moto, vero? Ma sicuramente sì, perché chi era presente ha avuto sempre gli stand pieni e lo stesso è successo anche a noi. Probabilmente molte aziende che si sono fatte prendere in contropiede dal fatto che l'EICMA c'era, forse non se l'aspettavano, pensavano che saltasse come è successo alla fiera in Germania o quella di Parigi, all'ultimo momento hanno rinunciato e poi si sono accorti che invece forse valeva la pena di essere presenti. Ecco, ho avuto proprio un pochettino questa sensazione. Da qualche anno vanno di gran moda gli scooter di proprietà, diciamo così, di automobilisti. Cioè un automobilista ha capito che una mobilità intelligente si può trasformare in una mobilità a due ruote, si inquina meno, si occupa meno spazio intorno a noi e soprattutto si va più in fretta, o meglio, si arriva prima a destinazione. Qual è la tendenza del 2010, secondo te Luigi? Aumenterà questo trend oppure no? Ma penso che questo trend rimarrà costante, anche se sono sempre stato convinto, e quello che è successo negli anni scorsi un po' mi ha dato ragione, che poi alla fine gli scooter siano propedeutici alla moto, nel senso che reintroducono nelle famiglie in modo dolce le due ruote e poi si parte dallo scooter e una volta sfondato questo valico poi si può andare avanti e passare anche qualche cosa d'altro. Per cui tutto sommato non penso che gli scooter diventeranno un vicolo cieco per quanto riguarda le due ruote, ma potranno essere anche una buona base di sviluppo per modelli un pochettino più tradizionali, se vogliamo. Il 2009 invece a livello sportivo ha dato grandi soddisfazioni alle due ruote, contrariamente un po' a quello che è successo nelle quattro ruote, perché abbiamo il campione del mondo di cross e anche di velocità. Sono due italiani. Che cosa ti aspetti dal 2010? Perché le moto anche mediaticamente tirano sempre di più. Ma le moto tirano sempre di più, anche se qualche problema, soprattutto nel massimo campionato, c'è, perché alla ricerca di costi un po' più ridotti c'è un po' di confusione regolamentare. Penso che l'anno prossimo i protagonisti, almeno per l'anno prossimo, saranno quelli noti, cioè Valentino Rossi in testa, e quindi anche nel 2010 ci sarà sicuramente da divertirsi. E poi vediamo cosa succede, è difficile ipotecare un futuro nelle corse che va al di là dei 12 mesi. È chiaro, come succede per Natale ormai passato, ti chiedo la letterina dei propositi da una parte, gli intenti di due ruote, ma anche le richieste da fare alle istituzioni per questo 2010. Vogliamo parlare di sicurezza o c'è anche qualche altro ingrediente, Luigi? Beh, la sicurezza direi che è la prima cosa. Mi rivolgo alle istituzioni, ma io mi rivolgerei anche ai motociclisti, perché come dicono gli inglesi la sicurezza sta soprattutto nel tuo polso destro. E allora, soprattutto pensando a quei tanti che sono passati dall'auto allo scooter per i motivi che abbiamo detto prima, gli direi state attenti, perché la moto è un po' diversa dall'auto, richiede un po' più di cura, un po' più di presenza, bisogna stare attenti a cose come la pressione dei pneumatici, vestirsi con abbigliamento magari con all'interno gli inserti di sicurezza e stare un po' attenti a quando si guida, non approfittare di questa improvvisa libertà per combinarne un po' di tutti i colori. Chiudiamo con una riflessione anche ironica, se vuoi. C'è sempre stato amore e odio fra automobilisti e motociclisti. Tu prevedi che possa cambiare questo eterno conflitto di amore e odio fra due categorie che in realtà non devono fare altro che convivere sulle stesse strade? No, ma io spero proprio di no, che questa divisione non finisca mai, perché anche su queste divisioni che tutto sommato si costruisce un po' di dibattito e, se vogliamo, anche un po' di divertimento, evidentemente rimanendo nei limiti della civiltà e della sportività. Decisamente. Ci sono programmi di due ruote che ci vuoi raccontare per l'anno prossimo o è segretissimo? No, non è segretissimo, siamo qua immersi anche noi nella neve con gente che va da tutte le parti per trovare un raggio di sole per scattare quattro foto, ma quello che sicuramente succederà l'anno prossimo è che Due Ruote continuerà la sua crescita. Cioè, la cosa importante è che, nonostante la crisi, non stiamo disinvestendo neanche un centesimo sullo sviluppo della rivista e del sito di motoonline.com, e quindi ci prepariamo a combattere in attacco un 2010. Combattere in difesa a noi non piace. Chapeau. Luigi Bianchi, direttore di Due Ruote, è stato con noi. A presto e tantissimi auguri per l'anno prossimo. Auguri a tutti, anche a voi, grazie. E dalle Due Ruote passiamo alle Quattro Ruote. Mauro Tedeschini, il direttore di Quattro Ruote, buonasera. Buonasera a voi. Su www.radio24.it nella sezione programmi c'è anche Quattro Ruote e dintorni, potete trovare tutti i contenuti di quest'anno con un bell'archivio, e poi vi aspettano tante novità davvero per il 2010, anno in cui Quattro Ruote si inserirà in un ambito a metà fra ecologia, ovviamente sicurezza e qualche sorpresa. Direttore, ci vuoi raccontare come hai già impostato in realtà l'anno che viene nella difficoltà di un settore di cui abbiamo parlato tanto quest'anno? Beh, fortunatamente sarà un anno però in cui ci saranno molte novità, perché questo 2009, con la grande crisi economica che imperversava, è stato un pochettino un anno di transizione per quello che riguarda i lanci, proprio perché le case aspettavano tempi migliori, e quindi fortunatamente nel 2010 torniamo ad avere novità che sono ovviamente quello che dà un po' di pepe al nostro mondo, e quindi avremo di nuovo un Alfa Romeo con la Giulietta, una piccola Audi con la 1, avremo la nuova Focus, insomma finalmente avremo macchine vere, nuove, e non semplicemente dei restanti così come è stato un po' nel 2009. È chiaro, se qualche anno fa vi eravate dati al MAC, ti ricordi il movimento allaccia cinture, con dei testimonial d'eccezione, se non sbaglio anche qualche ministro, poi la grande battaglia insomma per la diffusione dell'ESP, il controllo elettronico di stabilità, proseguirà quest'ultimo o ci saranno altri obiettivi più istituzionali? Ma dunque, allora, quest'anno noi ci siamo dati un obiettivo che riprende una nostra battaglia già lanciata più di un anno fa, ovvero quello di indurre finalmente le case a denunciare dei consumi che siano più rispondenti alla realtà di quanto non accada oggi. Oggi purtroppo, per una normativa europea un po' troppo permissiva, si consente alle case di denunciare dei consumi che sono lontani anche del 30-40% da quelli reali. Questo viene utilizzato anche in pubblicità, viene utilizzato anche sui libretti di circolazione, e poi ci scrivono molte persone dicendo: ma come, la mia macchina doveva fare 20 km con un litro, in realtà ne fa 15. Allora noi abbiamo deciso, anche nelle nostre prove su strada, già nell'apertura, di pubblicare con grande risalto il dato che viene appunto dichiarato a fianco del dato invece rilevato dai nostri collaudatori nelle prove su strada che vengono fatte a Vairano. Come si potrà vedere, c'è una grande difformità, e noi speriamo con questa campagna di arrivare a modificare la legge, di renderla, come dicevo prima, molto più realistica, esattamente come già avviene negli Stati Uniti, che dal punto di vista della tutela del consumatore sono un po' più seri di noi europei. Certo, decisamente, però anche qui arrivano sforzi tecnologici non da poco, perché comunque oggi le auto consumano oggettivamente poco e sono molto sicure. C'è un po' l'altra parte, secondo me, carente in fase di crescita, che è quello dei nostri comportamenti. Non so se tu sei d'accordo, però anche un lancio, un'autocritica, se vuoi, come automobilisti possiamo farlo. L'abbiamo visto la settimana scorsa con le grandi nevicate al nord, insomma se ne vedeva di tutti i colori, Mauro. Sì, non c'è dubbio, devo dire che sono stati fatti dei grandi progressi per quello che riguarda l'affidabilità e la solidità delle vetture. Adesso manca appunto un ulteriore passo, che è quello di una maggiore consapevolezza da parte di chi guida, anche perché ormai, come dimostrano i dati che pubblichiamo anche sul numero di Quattro Ruote che è in edicola, in macchina si muore sempre di meno, purtroppo si continua a morire in bicicletta, in motocicletta e a piedi, e ovviamente anche qui c'è un grande lavoro da fare, c'è un grande lavoro che significa soprattutto rispetto dei soggetti deboli, e da parte degli stessi soggetti deboli ovviamente una maggiore attenzione alle regole, perché troppo spesso spesso vediamo biciclette che transitano magari in maniera non proprio così sicura, vediamo pedoni attraversare in luoghi pericolosi, insomma ci vorrebbe da parte di tutti un grande rispetto delle regole, perché è solo attraverso le regole che noi riusciamo ad arrivare a questo famoso obiettivo di ridurre i morti e i feriti degli incidenti stradali in una maniera molto significativa rispetto ai 5.000 degli ultimi anni. Tu che hai un contatto diretto con le istituzioni, Mauro, ci vuoi dare un aggiornamento? Si parlava di 150 km orari, si parlava di una stretta sugli under 21 per quanto riguarda i comportamenti sotto effetto di droghe oppure di alcol alla guida, e qualcheduno diceva anzi, diciamo, un alleggerimento della norma per quanto riguardava il tasso alcolemico invece per chi ha più di 21 anni. Che cosa c'è di vero e quanto è leggenda? No, sono tutte cose di cui si sta discutendo, sono in Parlamento, al Senato, ormai la cosa è in via di approvazione, dovremmo appunto entro il mese di gennaio avere l'approvazione al Senato, ci saranno tutte queste modifiche di cui parlavi, io non credo che si arriverà ai 150, molto più probabilmente si arriverà ai 140, c'è cioè un compromesso all'italiana, però soltanto in alcuni tratti, tutti peraltro capillarmente sorvegliati dai tutor, cioè gli apparecchi di rilevazione della velocità media. Molto bene, allora io volevo ringraziare il direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini, grazie per essere stato con noi, intanto auguri, ma insomma ci aspetta un altro anno ricco di contenuti. Sì, io vorrei augurare anch'io buon anno a tutti, ringraziare voi di Radio 24 che ci seguite sempre con grande simpatia e soprattutto professionalità, e direi che nel 2010 avremo molte novità da raccontare, quindi sarà un anno ancora più stimolante di questo che non è stato un granché. Grazie davvero Mauro Tedeschini, a presto e buona serata. Arrivederci, buona serata. Molto bene, noi ci fermiamo soltanto un attimo, attenzione perché arrivano alcune inchieste davvero interessanti riguardanti il mondo dei motori, a fra poco. Quattro ruote e dintorni. E allora adesso tocca la prova dell'auto, anche questa settimana non potevamo naturalmente dimenticarci di un'auto in particolare, dopo i doverosi saluti di chiusura di fine anno ma soprattutto proiettati sul 2010, saliamo a bordo dell'Aston Martin, insomma credo due parole che dicano molto agli appassionati di auto, e non poteva che essere il tester di quattro ruote dedicato alle supercar che ci fa spesso compagnia, Aston Martin DBS volante provata dal buon Marco Perucca Orfei. Caro Marco, buonasera e bentornato. Bene, buonasera Roberto e un saluto a tutti i radioascoltatori. Dunque, prendiamola un po' alla larga, cerchiamo di capire che tipo di vita sta trascorrendo nel mare magnum delle case automobilistiche Aston Martin. Grande boom nel 2007, poi? E poi anche loro hanno sofferto ovviamente della crisi che ha colpito tutti, più ovviamente delle case che fanno auto diciamo di classe medio e medio bassa, meno per certi versi quelle che fanno auto di altissimo livello come la Aston Martin e Ferrari per intenderci, però anche loro hanno sofferto, Ferrari quella meno di tutte che io sappia, anche Aston Martin ovviamente i numeri del 2007 saranno sicuramente un miraggio nel 2009 insomma. Sì, decisamente, certo questo si inserisce no, in un panorama di cui abbiamo parlato molto ultimamente e che l'anno prossimo secondo te cambierà o no, perché abbiamo anche citato più volte il downsizing, quella tendenza tanto delle case costruttrici a ridurre le cilindrate per contenere i consumi, ergo l'inquinamento, però nello stesso tempo a dare le medesime prestazioni. Questo significa che più persone hanno comprato auto di medio-piccola cilindrata e hanno sofferto un pochino di più le grandi cilindrate, che ovvio costano di più e consumano anche di più, però appartengono a un target anche più elevato, che spesso non si fa molti problemi di economia, di finanza locale in questo senso. E allora ti chiedo, secondo te che cosa succederà, prendendolo veramente alle spanne, alle top car? Ci sarà la tendenza a ridurre le vendite in generale, pensiamo a Ferrari, a Lamborghini, a Aston Martin appunto e tutte le altre, oppure è quella nicchia che manterrà sempre il suo fascino? No, io credo che ci saranno sempre coloro che ameranno questo tipo di auto, soprattutto coloro e speriamo che possano che se le possano permettere. Nel mondo i numeri non sono grandissimi, ovviamente chiaramente questi costruttori riescono comunque a vendere le loro automobili senza troppi problemi. Pensiamo alla Ferrari che ha già la produzione venduta anche adesso sia della California sia della 458 Italia, ovviamente se uno vuole prenotarsi una macchina di quel genere deve aspettare parecchio tempo. Ovviamente l'Aston Martin fa parte di questa schiera di auto da sogno, di auto assolutamente esclusive, contornate peraltro da un marchio che è storico e che quindi concorre a creare fascino attorno a questo genere di automobili. Il 2010 ovviamente è nella speranza di tutti i costruttori che possa essere meglio del 2009, che poi non si è chiuso poi così male, diciamo, nel mercato delle auto comuni, vuoi per gli incentivi, vuoi per, insomma, per queste promozioni che sono state, alla fine il mercato non è poi andato così male, a mio modo di vedere. Quello delle supercar ovviamente è legato poi molto anche alle mode e al tipo di, diciamo, di gusto di questa clientela estremamente particolare. È molto molto esigente. Abbiamo conosciuto la DB7, abbiamo conosciuto la DB9 e poi è arrivata la DBS. Adesso aggiungiamo una parolina, che è una parola storica per Aston Martin, volante. Che cos'è la DBS volante? La DBS volante è la versione aperta della DBS, che è la coupé di punta della casa inglese, quindi la coupé più veloce, potente e costosa anche. Qui siamo oltre 250.000 euro, anzi più vicini ai 260.000 euro, per un'auto che ovviamente ha grandi caratteristiche tecniche e fascino da vendere. Allora, andiamo con i dettagli, perché credo che sull'eleganza e sul fascino non si debbano più sprecare parole per un'auto che ha fatto parte della dotazione di serie di James Bond, per dirne soltanto una, ma in realtà è comparsa anche in molte altre produzioni cinematografiche. Ha sempre conservato la Aston Martin quel suo marchio originale di eleganza inglese, no? Sì, io devo dire che in questo caso proprio le sprechiamo invece due parole, perché quest'auto è le sprechiamole volentieri. No, sprechiamole, perché è un'auto, non so, a mio gusto, di un'eleganza, di una classe, di una equilibrio. Tutte le Aston Martin questi ultimi anni, per me, sono una più bella dell'altra, e la volante, la DBS volante, pure in versione aperta, quindi la versione, diciamo, aperta di una coupé, secondo me mantiene intatto il fascino della coupé, anzi ha qualcosa in più, direi, ed è veramente bellissima, una moto che quando uno la vede non può fare a meno di girarsi a guardarla. Fatto questo, diciamo, è anche una gran bella sportiva. Sì, e allora sentiamo alcuni particolari che ci danno anche delle impressioni di alcune prestazioni veramente particolari. Allora, incominciamo dal motore, che è il classico 12 cilindri Aston Martin, è un 6 litri, dicevo 12 cilindri, che eroga 517 cavalli a 6500 giri, 570 Nm di coppia a 5750, che vuol dire che è un motore che è sì bello, pastoso, diciamo, pronto, elastico ad ogni regime, ma che ha anche una bella cattiveria quando si supera nei 5000, lo si sfrutta fino al limitatore, che è attorno ai 7000 giri. Questo per dire che è un'auto veramente di classe, d'eleganza, ma se uno ci vuole andare, insomma, le prestazioni ci sono e come, e la cattiveria viene fuori non male, insomma. Quindi una doppia anima, diciamo, se vogliamo, in quest'auto. Doppia anima che però ha un solo prezzo. Dicevi prima abbondantemente sopra i 200, addirittura 250.000 euro. Senti, qual è, devo chiedertelo a questo punto, il target non solo di una Aston Martin, ma addirittura di una DBS volante? Ma il target come clientela, beh, insomma, è ovviamente a livello di gente che possa spendere quest'auto per un giocattolo, perché alla fine è un'auto che può essere utilizzata tutti i giorni tranquillamente, però insomma non è così comune, insomma, ecco. Certo, però è più un amante Aston Martin giovane, è uno che vuole la cabrio, oppure è un vecchio collezionista, insomma, che magari in garage o nel capannone ha 10, 15, 20 vetture, secondo te? Visto il portafoglio che deve avere questo signore, direi che ha tante altre di queste macchine. Decisamente. Nel suo garage sarà pieno di questi bei giocattoloni. E questo però ci vuole, insomma, non può mancare in una collezione come si deve. Assolutamente. Poi non molti sanno che ci sono all'interno di queste famiglie di auto davvero davvero particolari, qui stiamo parlando di una top car, per di più cabrio, da più di 250.000 euro, figuriamoci, saranno pochissime le unità vendute nel nostro paese, però fatto poi globalmente un numero soprattutto su base europea, in questo caso ci sono dei raduni, c'è cioè un'attività a livello di club che va ad unire, no? Che fa anche network naturalmente fra le persone, come avviene con un po' tutte le auto particolari in questo senso, e questo aiuta a conoscere ovviamente e a riconoscersi in qualche modo. Marco Perucca, ti ringrazio molto per questa prova, per queste impressioni al volante, grazie, a prestissimo e tanti auguri. Bene Roberto, ti saluto e un saluto a tutti i radioascoltatori, auguri di buon anno, visto che ci ritroveremo nell'anno nuovo. Bene, adesso ci trasferiamo nella redazione di alcuni nostri partner che ci fanno compagnia una volta al mese, ed è esattamente quella di Top Gear. E allora buonasera e bentornato al direttore Marcello Minervi. Ciao Marcello. Ciao, quando mi chiami partner mi dai un onore che non mi compete. Sono un vostro ascoltatore, assolutamente, non sono un partner. Grazie e Marcello. Mi considero un amico come considero gli amici, tutti gli ascoltatori che hanno la pazienza di sentire le mie bambanate che qualche volta dico, le mie sparate, e possono essere un po' fuori di testa. No, no, insomma, sono sempre simpatiche invece. Poi il tuo giornale è un po' fuori di testa, quindi va bene che sia così, no? Vogliatemi bene lo stesso, dai. Ne approfittiamo, la scusa è di farci gli auguri alla fine di un anno difficile per il comparto automobilistico, ma che in realtà si è chiuso anche meno peggio, come non si dice, di quanto invece ci aspettassimo. La scusa è quella. Invece potrebbe essere utile, credo, sfogliare insieme a te il numero di gennaio di Top Gear, perché ho visto che c'è una elezione massima fatta dagli inglesi, una vera e propria top parade. Gli inglesi hanno l'abitudine di fare queste riunioni, di questi resume a fine anno, in cui assegnano dei premi, dei top prize alle vetture che si sono più appalesate, che hanno divertito di più o che sono piaciute di meno, o a quelle che in teoria piacevano di meno ma che poi si sono rivelate un pochino più divertenti. Beh, anche quest'anno si sono ripetuti, e tanto per dirne una, pensate qual è stata la miglior auto di lusso. Provate a dirlo voi, amici che seguite Top Gear. Bene, gli inglesi hanno eletto miglior auto di lusso, non la Rolls, ma la Skoda Superb. È la Superb. Questa è una cosa che, quando ho girato pagina, in una bella foto tra l'altro che c'è della Skoda, mi ha lasciato un po' così. Vuoi spiegare secondo te quali sono le intenzioni di questa elezione? Guarda, le intenzioni di questa elezione sono la massima onestà e coerenza di una vettura che ha un prezzo assolutamente abbordabile e una qualità di altissimo livello. Questi sono parametri importanti, per e cui si va è anche questo. Per forza, certamente, anche perché non lo trovi proprio ovunque, quindi questo oggettivamente diventa lusso anche questo. Poi citiamone un altro paio, perché ci sono delle belle auto inserite nella top parade. Io non voglio star qui a citare le auto super titolate, ma direi che per esempio varrebbe la pena di citare anche dei personaggi che sono stati insigniti di questi onori. Per esempio, noi italiani abbiamo detto che Jenson Button era un taxista, era qui, era là, insomma, questo ci ha vinto un titolo mondiale. Ha fatto l'ultima gara in cui ha veramente fatto vedere quello che valeva, e lui è stato eletto tra gli uomini dell'anno. E tra gli uomini dell'anno ovviamente c'è anche Ross Brawn, che sì, è sì, quello che ha portato Schumacher a vincere i campionati del mondo, e lo stesso la Ferrari. E non ha mica finito, perché se ne parla tantissimo in questi giorni, lo sapete, di Ross Brawn, che sembra riabbracciare da vicino il suo pupillo Michael Schumacher. Tra l'altro consiglio di vedere quella foto invece di Jenson Button, perché devo dire è in buona compagnia. Non fare commenti, Marcello, è veramente una bellissima foto. A mia età mi lustro gli occhi, cosa vuoi che ti dica? Voglio fare altro che invidiarlo. Senti, invece, parlando dei vostri contenuti, come sapete poi Top Gear aggiunge sempre dei contenuti italiani, c'è una cosa che succede in America che tu hai portato all'attenzione di tutti i lettori, è una specie di rito. Che cos'è? Allora, gli americani sono specialisti dello spettacolo, loro riescono a fare spettacolo con le cose più incredibili, dalla nonna sulla sedia a rotelle spinta giù in un burrone o che so io, e poi viene ripreso. Bene, gli americani hanno una manifestazione che si svolge a Petaluma in California e si conclude a una serie di eventi in pista, fatto con delle vecchie carcasse rabberciate in qualche modo, dove l'airbag è un cuscino di plastica fissato con un elastico, e si chiude con il Demolition Derby. Sono i 200 giri più catastrofici del Nord Europa, dove tutto, quasi tutto, è permesso durante questa gara, quindi è un servizio assolutamente straordinario, è un servizio per noi italiani assolutamente impensabile, cioè nessuno di noi italiani potrebbe pensare a una gara o a un campionato di questo genere. Beh, insomma, loro l'hanno fatto. Beh, loro lo fanno, e come sempre lo fanno a testa alta, immagino vestiti come, no? Con tutti quegli ammenicoli che solo gli americani sanno assommare su di sé. C'è spazio per 30 secondi per un ultimo flash e ci salutiamo. Flash, che cosa devo dirti? Noi siamo degli assoluti, accaniti, cultori delle automobili vere, quelle che magari non piacciono ai super green, ai super verdi. Io non sono convinto che tutte le super green siano così verdi, non sono convinto che tutte le ibride siano così pulite. Sì, sì. Jeremy Clarkson, tutto sommato, la pensa come noi, e nel suo fondo dice più o meno queste cose in un modo molto più ruspante. Come ci ha abituati naturalmente a leggere. Bene, grazie a Marcello Minerbi, il direttore di Top Gear, l'appuntamento anche con te è a gennaio. A presto e buona serata. Grazie, tanti auguri a tutti, arrivederci, grazie. Noi ci fermiamo soltanto un attimo, attenzione però che adesso parliamo di Master sull'auto che si svolge a Roma, ma prima ancora di Due Ruote con Fabio Cormio. A fra poco. 4. Ruote e dintorni. E adesso ci trasferiamo in Germania e parliamo di BMW. BMW di solito è utilizzato dai nostri commentatori per parlare di quattro ruote, di tante prove, di tanti servizi e poco invece di due ruote. Invece questa sera il focus sarà proprio sulle due ruote BMW. Fabio Cormio, specializzato proprio di due ruote, è con noi. Caro Fabio, buonasera e bentornato. Grazie Roberto, buonasera e buonasera anche a tutti gli ascoltatori naturalmente. C'è una sigla precisa che è al centro della nostra attenzione questa sera, S1000RR, le mie iniziali, mi perdonerai, mi sta simpatica questa moto, ci vuoi spiegare che cos'è? Beh, è il nostro Andrea Padovani che è quello che l'ha provata per noi al circuito di Portimão, dove si è tenuta la presentazione ufficiale, l'ha chiamata una bomba intelligente e secondo me è un titolo... titolo dell'articolo, peraltro che trovate su Due Ruote, il nostro mensile in edicola, ma è un titolo che riassume molto bene questa motocicletta, perché è potentissima, ma molto, molto di più di quello che qualcuno, che qualche scettico si poteva aspettare da una sportiva BMW, e poi intelligente perché è veramente ricchissima di elettronica. Allora, la BMW ci ha così abituati ad una grande comodità, un grande comfort di viaggio, a una tenuta sul mercato molto importante e ad una certa affidabilità. Da un po' di anni, anche con l'apertura adesso con Husqvarna addirittura al motocross, all'enduro, però da un po' di anni BMW ha anche sperimentato, no? I due cilindri in linea invece che il solito motore Boxster, più o meno riuscito questo a seconda di chi lo commenti, e poi anche le sportive. Sportive finché è arrivata la bomba intelligente. Ci fai capire secondo te a che punto è oggi l'anima BMW? Ma c'è uno spostamento vero di campo oppure sarà sempre la BMW da viaggio? Sicuramente, mi permetto di dire la BMW da viaggio come giustamente dici tu, e come giustamente rientra nell'immaginario collettivo, ecco, quella BMW lì resterà, non può non esserci perché il cavallo di battaglia proprio di questa della casa bavarese è proprio la GS, quindi l'endurona stradale che si è tra l'altro appena rinnovata, che vende tantissimo, forse è la moto più venduta d'Italia nonostante il prezzo, e poi tutte le turistiche, però certamente c'è uno spostamento perché è una casa che cerca in questo momento di guardarsi intorno e quindi di offrire dei prodotti a 360 gradi. Chiaramente BMW le cose le fa alla sua maniera, quindi le fa cercando di stare al top. Nonostante coloro che hanno visto quest'anno, che hanno seguito il campionato Superbike, nonostante questi non abbiano visto dei grandissimi risultati da parte della BMW S1000RR, sì, con Corsair e con Chaus, questo non significa che la moto sia scadente, tutt'altro. Un conto sono le moto veramente di serie e un conto sono le moto da Superbike. Tanto che noi stessi, il nostro tester che citavo prima, Andrea Padovani, che è una bella manetta, e gli altri tester delle altre riviste che hanno provato questa moto su un tracciato tecnico come quello di Portimão in Portogallo, si sono resi conto che è davvero una moto che non ha nulla da invidiare, anzi forse ha qualcosa da farsi invidiare dalle altre concorrenti. Allora cerchiamo di conoscerla al meglio, perché stai utilizzando degli aggettivi molto entusiastici per questa moto, per cui vorrei capire esattamente le prestazioni, due caratteristiche tecniche di questa BMW S1000RR. Allora, prima di tutto partiamo con i numeri e ti posso parlare di un motore 4 cilindri in linea, quindi un'architettura giapponese. Del resto questa moto, se non avesse l'elica BMW sulla carenatura, potrebbe sembrare una giapponese, sì, perché ha la trasmissione finale a catena a cardano e poi le dimensioni sono compatte. Si parla di 142 kW di potenza, che equivalgono a 193 cavalli, quindi anche qui siamo assolutamente al top. Il prezzo è di 15.850 euro chiave in mano, questo è il prezzo di partenza, però va considerato che questa moto ha la sua collocazione nella sua elettronica, veramente nelle sue chicche elettroniche, quindi controllo di trazione e quello che la BMW definisce Race ABS. Per avere il pacchetto completo bisogna aggiungere 1.250 euro. Ah ecco, quindi questo è un optional, insomma, per chi vuole ovviamente il massimo. Che uso su strada si può fare e come la si può guidare su strada, Fabio? Io credo che sia una moto adatta all'uso stradale. La BMW ha diramato anche molte foto e video dove fa proprio vedere la moto impiegata non soltanto in circuito ma anche in strada. In effetti, nonostante le dimensioni compatte, che sono quelle tipiche di una ipersportiva, in sella ci si sta bene anche se si supera il 1,80 m. Del resto il pubblico tedesco, insomma, sarà un luogo comune ma è quasi tutto di clienti piuttosto dimensionati. E di fatto la cosa più importante è che la moto ha una gestione, come dicevo, elettronica molto interessante, e ci viene in mente la Ducati Multistrada, che ha appena introdotto il concetto di modalità di guida, cioè al manubrio si possono selezionare tramite un interruttore non soltanto delle mappature diverse del motore, in questo caso sono quattro, ma a queste mappature corrispondono anche diverse tarature dell'ABS e del controllo di trazione. Sulla BMW S1000RR accade proprio questo. Po' assomiglia al manettino sul volante di alcune super sportive, dove c'è la possibilità proprio di settare sia la rigidità delle sospensioni, sia la velocità di erogazione, sia addirittura i tempi di cambiata. Quindi sempre di più l'auto e le moto si mettono a disposizione di una personalizzazione per cercare di aderire più possibile a chi le guida e andargli incontro sull'itinerario che sta naturalmente percorrendo. Molto bene, ricordiamo il prezzo di questa moto, un commento finale da Pregi Difetti e ci salutiamo, Fabio. Dunque, il prezzo lo ricordiamo. Stiamo parlando di 15.850 euro chiave in mano, che è un prezzo in realtà niente affatto proibitivo per moto con una portata di sofisticatezza elettronica così importante. Pregi e difetti, sicuramente annoveriamo sicuramente la grandissima potenza del motore, e siamo certi che l'anno prossimo la BMW sarà in grado di competere con ai massimi livelli anche in Superbike. Per quanto riguarda l'approccio, ecco, questo può essere un piccolo difetto, un piccolo limite, perché chi sale sulla BMW avrà qualche problema, nel senso che dovrà imparare a dialogare col DTC, cioè col controllo di trazione, che non è proprio così intuitivo. Molto bene, grazie davvero per ora Fabio Cormio, a te gli auguri di tutti i nostri ascoltatori, ma anche il proposito di rimanere con noi l'anno prossimo per 1000 prove insieme. Ciao! Lo spero bene Roberto, ciao e auguri a tutti! Chiudiamo adesso con un argomento utile, credo, a tutti i vostri figli oppure giovani in ascolto, un master sull'auto, perché in un momento in cui l'auto soffre, eppure ci sono dei posti disponibili, c'è la possibilità di trovare lavoro all'interno del settore auto e questo è decisamente importante. Lo facciamo con Pierluigi Del Viscovo, il direttore del Centro Studi Fleet e Mobility, in realtà perché è la persona di riferimento proprio del master sull'auto, che inizierà verso fine febbraio-marzo 2010, quindi mancano ormai pochissime settimane. Caro Pierluigi, buonasera e bentornato. Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Senti direttore, allora che cos'è questo master sull'auto di cui in realtà già un anno fa parlammo, ma è giusto rinfrescare le idee? Dunque, questo master sull'auto è un master che forma i giovani che sono appassionati di automobili e che vogliono entrare assolutamente a lavorare nel contesto automobilistico, sia essa una casa automobilistica o una società di noleggio o un'altra organizzazione che lavora in questo campo. Più che un corso di formazione, io lo definirei un sistema di ingresso in questo settore, perché non è soltanto un luogo dove si imparano un sacco di cose molto pratiche, per 5 mesi si sta nei banchi full time e quindi c'è un apprendimento serrato di tutte le cose importanti del settore automobilistico, ma oltre questo c'è una conoscenza con tutti i maggiori esponenti, perché i nostri docenti sono in gran parte i top manager delle aziende e delle associazioni del settore automobilistico e quindi i giovani hanno la possibilità di entrare direttamente in contatto con queste persone, insomma, quindi si conosce il linguaggio, ci si fa conoscere, si ragiona insieme, quindi è un sistema più che un corso di formazione. Senti, se nel campo sanitario sono gli infermieri più richiesti, nel campo edile e costruttivo sono sempre gli ingegneri che la fanno da padrone, nel campo automobilistico quali sono i profili più richiesti? Guarda, nel campo automobilistico sono richiesti i generalisti, perché c'è un grosso cambiamento culturale in atto, per cui sia le persone che hanno una sensibilità spiccata per i numeri, quindi diciamo più gli statistici se vuoi, ma poi anche tutti quelli che hanno una sensibilità invece per le cose sociali, per intercettare il mercato, per capire i consumatori, gli automobilisti che si stanno trasformando in modo velocissimo e in modo molto apprezzabile, e soprattutto poi dei bravi gestionali, perché le organizzazioni soprattutto nella distribuzione diventano sempre più complesse e quindi hanno bisogno non soltanto di specialisti ma anche di generalisti di gestione per essere insomma sempre al top della performance. Bene, allora a questo punto volevo chiederti burocraticamente che cosa consigliare e anche organizzativamente a chi vuole partecipare, che requisiti ci sono e quanto tempo e quanto costa. Guarda, i requisiti sono di avere una spiccata passione per questo settore e delle capacità, per cui anche chi non avesse una laurea, ma magari un'esperienza nel settore o anche familiare, può tranquillamente partecipare alle selezioni. Per partecipare alle selezioni bisogna contattare il nostro centro studi Fleet & Mobility, basta andare sul sito fleetandmobility.it e lì ci sono tutte le indicazioni per partecipare al master. Le selezioni sono in corso, ci sono anche delle borse di studio messe a disposizione dagli sponsor del master, che sono appunto case automobilistiche, società di noleggio, finanziarie. Queste borse di studio qualcuna credo che sia ancora disponibile. Noi abbiamo ad oggi circa 9 iscritti già, ma arriviamo anche fino a 15 tranquillamente, quindi chi fosse ancora interessato c'è ancora la possibilità di partecipare alle selezioni. Ecco, e chiudiamo con qualche informazione per capire esattamente che cosa fare. Quindi se c'è l'ascolto, chi volesse iscriversi cosa deve fare? Deve contattare il centro studi Fleet & Mobility, ripeto, andando sul sito www.fleetandmobility.it oppure chiamare al numero 06 6839 2090. Molto bene, grazie per ora a Pierluigi Del Viscovo, direttore del centro studi Fleet & Mobility. Grazie Pierluigi, a presto e buon anno. Grazie, buon anno a te e a tutti gli ascoltatori. Un saluto che non posso che girare a tutti voi che ci avete seguito durante tutto il 2009, però la promessa è quella di tornare l'anno prossimo ricchi di contenuti con 1000 auto da provare e inchieste da fare. www.radio24.it e 4ruote@radio24.it. Da Roberto Rasia un sincero augurio per un ottimo anno, ma soprattutto, come sempre, buona guida.